Incontri di Gianfranco Fabi. No, così non va. Io cerco un uomo che mi dia l'eternità. Tu, coi baci tuoi, mi accendi, ma non basta quel che resta. No, mi basta sai. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Ornella Vanoni, abbiamo iniziato con Ornella Vanoni, un brano che si chiama Per l'eternità, scelto da Pippo Corigliano. Buongiorno Corigliano. Buongiorno. Fra l'altro potevamo sceglierne anche altri, perché Ornella Vanoni con l'eternità c'è molto a che fare, c'è anche Stare qui al sapore dell'eternità, pure un'altra canzone sua, quindi come Ornella Vanoni è una delle tante dimostrazioni che l'amore e l'eternità vanno a braccetto. Come avrete capito, Pippo Corigliano è un esperto di eternità, però mi sono un po' stupito che abbia scelto un brano in fondo laico. Certo, certo, perché il mondo, se è stato creato da Dio, il mondo è tutto creatura di Dio, quindi questa distinzione che sempre ripetiamo tra laico, cattolico e così via, non è che esiste un mondo cattolico e un mondo laico, il mondo è quello che è, insomma è una creatura, e quindi il mondo in un certo senso è laico perché Dio ha fatto le cose così, quindi il mondo è laico non nel senso di laicista naturalmente. Ecco, Pippo Corigliano è certamente informato dei fatti perché è direttore dell'ufficio informazioni dell'Opus Dei e ha scritto un libro di successo, ormai da più di 6 mesi in libreria, ce ne trova ancora qualche copia probabilmente, gli altri sono andate a ruba. Sì. Preferisco il paradiso, editore Mondadori. Ecco, perché preferisco il paradiso? Mi sembra banale, tutti noi preferiamo il paradiso. Sì, intanto la frase era di San Filippo Neri, che disse, quando gli proposero di diventare cardinale, disse veramente preferisco il paradiso, quindi diciamo una battuta, no? Ma forse alla... mi sembra Woody Allen aveva detto preferisco l'inferno, è pieno di belle donne. Sì, anche Mark Twain diceva che preferisco il paradiso per quanto riguarda il clima, mentre invece l'inferno per la compagnia. Queste sono belle battute, però in realtà invece no, la compagnia dell'inferno è solitudine e tristezza. Viceversa, invece il paradiso e l'allegria vanno a braccetto, nel senso che la gioia, la serenità sono proprie di chi è innamorato. Perché in essenza, l'essenza del paradiso è questa, lo dice Ratzinger, che quando si vive l'esperienza di un grande amore, quello è un momento di redenzione. E per lui redenzione vuol dire non aver barriere con Dio, cioè paradiso. E quindi quando si vive un amore, e viceversa, così come sperimentiamo il paradiso su questa terra quando viviamo un amore, il paradiso sarà questo, essere innamorati. E come dice Ornella Vanoni, stare qui al sapore dell'eternità, quando si è innamorati non si sente la noia, cioè un innamorato che sbadiglia non esiste. Ecco, in un certo senso uno cerca il paradiso per ritrovarselo poi sulla terra. Certo, proprio così. Proprio così, cioè vivere l'amore di Dio, cioè questo grande regalo, perché Dio non ci ha mandato un catechismo, ci ha mandato Gesù, una persona. Quindi vivere e seguire l'esempio di Gesù, che è una cosa vitale, non è un insieme di norme, non è un moralismo Gesù. Gesù è una persona. Per cui ecco, sapere amare, lui ha detto chiaramente, da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, che vi sapete voler bene. Quindi saper voler bene è la anticipo del paradiso su questa terra. E quindi questo libro, Preferisco il paradiso, è un po' le istruzioni per l'uso di chi certo, vuole. Infatti ha come sottotitolo un po' presuntuoso La vita eterna, com'è e come arrivarci, quasi un manuale. Un manuale, ecco, anche perché forse c'è bisogno in questa società contemporanea di un manuale di questo tipo. Certo, perché anche si è un po' portato Dio, cioè anche i programmi televisivi, a parte quelli della Lux di Bernabei, sono sempre programmi impostati su uno stile di vita come se Dio non esistesse, come se Dio non ci fosse. Invece Dio c'è, tra l'altro, se non altro abbiamo l'appuntamento con, purtroppo sempre con il dolore e la sofferenza, e allora ci ricordiamo giustamente di Dio, del fatto che siamo limitati. Per cui ecco, invece vivere sapendo che Dio è padre, come nel figlio prodigo, Gesù quando si inventa questa parabola del figlio prodigo fa veramente un'opera d'arte, questo papà che aspetta dalla terrazza, no? Che accoglie in quel modo. Ecco, questo libro appunto ha l'ambizione di parlare anche a chi non crede. Certo. Lei ha avuto qualche riconoscimento, non dico qualche conversione, sarebbe forse troppo, ma qualche riconoscimento da qualche non credente di aver colto in questo libro? Sì, ho ricevuto diverse lettere, fra le altre altre quella di una signora che mi ha detto: il suo libro mi tiene compagnia e lo leggo e lo rileggo anche di notte e non mi toglie tempo al riposo, in realtà, anche se occupo del tempo a leggerlo, mi riposo lo stesso. Questo mi ha fatto molto piacere, perché è un libro che porta serenità, proprio perché la verità porta serenità, sapere di essere creature, non solo, ma figli piccoli. Nel Vangelo la lode dei bambini si trova soltanto nel Vangelo, non c'è nessun altro testo classico della storia dell'umanità in cui i bambini non solo sono ammessi, ma addirittura diventano un modello, per cui capire che noi davanti a Dio siamo proprio bambinissimi, potremmo dire, no? Siamo piccolissimi, e quindi allora questo aggrapparci a Lui è importante, e quindi aprire le porte della nostra anima allo Spirito Santo. Perciò è importante anche leggere il Vangelo, per esempio. Se noi non conosciamo Gesù, come facciamo a identificarci con Lui, no? Quindi leggere il Vangelo e tornare alla confessione, come il figlio al prodigo che ritorna dal padre, gli dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Invece il padre, viceversa, lo prende e lo tratta come un principe, dice: portate il vestito più bello, ammazzate il vitello grasso, mangiamo e facciamo festa. Cioè, questa idea della festa, questo è Dio quando noi ritorniamo a Lui. Ecco, ma come attualizzare il Vangelo? Il Vangelo appunto ha queste immagini, il vitello grasso che ormai nessuno può più uccidere per fare festa, appunto sono, certo, immagini un po' antiche. Certo, rischia però di essere qualcosa affidato più alla storia che non alla cronaca dei nostri giorni. Sì, come attualizzare questo messaggio? No, ma sono immagini che parlano all'anima, perché la cosa importante non è cosa fare quando uno vuole essere più cristiano, ma come essere. Per questo allora diventare persone che conoscono Gesù, che riflettono. E allora, rispetto alla vita, diventiamo come una centrale elettrica che dà energia e calore a tutti. Cioè il cristiano dovunque va porta serenità, è il vero cristiano, no? E quindi proprio questa società ha proprio bisogno di cristiani. Infatti Gesù chiama i suoi apostoli, li chiama amici, e infatti la parola amicizia è quasi scomparsa dal nostro vocabolario, mentre amore viene utilizzato come uno straccio, la parola amore se ne usa, abusa quasi, no? Invece di amicizia ce n'è poca, e invece è importante anche nell'amore fra uomo e donna che ci sia amicizia, quindi una relazione che sia aperta, una relazione che sia aperta, che sia costruttiva, che sappia avere fiducia nell'altro. Proprio così, perché quando si ha relazione con Dio, si ha relazione con Gesù, le nostre relazioni diventano molto migliori. E anche le difficoltà della vita, del lavoro. In fondo nel lavoro avvengono le stesse cose, anche poi negli altri aspetti della vita, e si ripete la vita di Gesù. C'è il momento degli evviva e il momento degli abbasso, no? Il momento di tu sei il figlio di Dio, il momento di dire crocifiggetelo, no? Quindi quando dovevano scegliere, tante volte si sceglie Barabba al posto di Gesù. E quindi allora, se uno non ha la statura di Gesù dentro di sé, davanti alle difficoltà della vita si può abbattere, mentre invece il cristiano sempre deve difendere naturalmente i propri diritti, no? Come deve dare un senso alle cose, però dare il senso alle cose, è giusto, sì. Dare un senso a quello che avviene, vedere questo che avviene, ecco. Ma non è facile in una società contemporanea, una società secolarizzata, come si dice, non è facile. Sì, bisogna... è una società impoverita, ecco. Se essere secolarizzata vuol dire ridursi a fare una vita quasi un po' animale, e basti pensare alla parola amore. Oggi per amore si intende quasi si intende tutto, però viene molto spesso utilizzata anche per un rapporto soltanto fisico, no? Quindi, mentre invece, ecco, tutta la ricchezza di chi sa amare è tutta un'altra cosa. Allora l'uomo è veramente uomo, se no è un po' bestia. Cioè innamorato dell'umanità, in fondo. Esattamente, proprio perché l'umanità l'ha fatta Dio. Non solo l'ha creata Dio, ma addirittura Gesù si è fatto uomo. Quindi viva l'umanità, non si può essere divini senza essere umani. Ecco, in questa appunto, in fondo ambivalenza, è un'ambivalenza di un uomo che è creato da Dio, ma che in fondo sogna di essere anche lui creatore. Esattamente, però figlio del creatore, non alternativa al creatore come il peccato originale. Adamo vuol far da sé, vuol vivere come se Dio non esistesse e decidere lui il bene e il male, e questo è quello che lo porta alla morte. Viceversa, come Gesù, che è il nuovo Adamo, l'obbedienza e il servizio. Incontri. Inutile slanciarlo, sai, io sola forse riuscirei senza di te. Così non va, io cerco un uomo che mi dia l'eternità. baci tuoi mi accendi in mano. Ben ritrovati, buon pomeriggio ancora e buona domenica da Gianfranco Fabi. Siamo qui con Pippo Corigliano, portavoce dell'Opus Dei, direttore dell'ufficio informazione dell'Opus Dei in Italia. Abbiamo parlato nella prima parte del suo libro Preferisco il Paradiso, un libro che è ormai da 6 mesi è nelle librerie con grande successo. Ecco, Pippo Corigliano, lei ha scritto questo libro forse perché ha dovuto scrivere negli ultimi tempi meno lettere ai giornali. Certo. Qualche anno fa era molto frequente la sua firma in cui precisava, diceva sì, questo esponente non è dell'Opus Dei, è sbagliato riferire all'Opus Dei, queste cose qua. Negli ultimi tempi è molto diminuita. Sì, per fortuna sì, anche attraverso i media. E stranamente devo essere grato a Dan Brown, e questo sembra un paradosso perché Dan Brown nel suo libro ha inventato che l'assassino è un membro dell'Opus Dei. Il codice da Vinci, ricordiamo. Il codice da Vinci, no? E naturalmente, ed era un monaco, che è l'unica categoria di persone che non sono dell'Opus Dei, non possono essere dell'Opus Dei perché già hanno fatto una scelta religiosa, diciamo, no? Per cui, ecco, Dan Brown con questo mettere i riflettori sull'Opus Dei ci ha reso un servizio, perché normalmente i mezzi di comunicazione trattano di politica o di economia oppure di frivolezze, cronaca, e l'Opus Dei non trova spazio in questo spazio, diciamo, no? Perché l'Opus Dei riguarda soltanto il riavvicinamento dell'uomo a Dio. Questo è il fine dell'Opus Dei. Per noi il successo nostro non è quando i giornali parlano bene di noi, il successo nostro è quando uno nel suo intimo decide di confessarsi, che è una delle cose più belle che possono succedere nella vita. Appunto, prima parlavamo della parabola del figlio prodigo, lui si sa confessare, dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. E invece viceversa il padre poi lo tratta alla grande. Quindi questo di saper ritornare a Dio con una buona confessione è una delle cose che fanno più bene nella vita, no? Non soltanto perché psicologicamente uno si scarica, non è soltanto questo, perché uno lo potrebbe fare allora anche con un amico, ma perché proprio c'è proprio il rapporto buono, la relazione buona con Dio. Questo fa tanto bene, anche fisicamente. Quindi lei afferma e ribadisce che l'Opus Dei è essenzialmente un'unione di persone alla ricerca, sì, di una formazione religiosa. Esattamente, questa è l'opera che rispetta assolutamente tutte le opinioni. Quindi l'Opus Dei è un po' come suonare il diapason, cioè dare semplicemente un tocco su un diapason, poi il diapason vibra con la propria nota, e così, ecco, l'Opus Dei non vuol cambiare per niente nella vita professionale, nella vita familiare, eccetera, eccetera, e invece vuole semplicemente far sì che ognuno riscopra il rapporto di figlio di Dio con il suo carattere, con le sue caratteristiche nel suo ambiente. Quindi questo, per questo mi ha sempre affascinato il messaggio del fondatore, che è San José María Escrivá, che non a caso era una persona che mi ha insegnato a saper voler bene. Perché non basta voler bene, bisogna anche saper voler bene, applicare l'intelligenza all'amore. Quanti sono gli aderenti all'Opus Dei in Italia? Adesso? Guardi, in realtà, adesso glielo dico perché siamo sul numero e sui 4.000 persone, ma vuol dire molto poco questo, perché è il messaggio quello che conta. Per cui grazie a Dio il messaggio dell'opera ormai ha raggiunto persone dell'ordine di milioni, no? Persone che sono state in contatto con le nostre residenze universitarie o nelle nostre scuole di formazione per operai, cioè ci sono tanti modi di entrare in contatto con l'opera, e grazie a Dio sono già tante che hanno avuto questo messaggio così allegro di ricordarsi di essere figli di Dio. Questo è il punto. Quindi il problema di fondo è un problema sempre religioso, ma possiamo dire, smentisce ancora una volta che l'Opus Dei abbia delle finalità politiche, o almeno che i membri dell'Opus Dei siano insieme talvolta per raggiungere delle finalità politiche. Ecco, non dico qualcosa di rituale, qualche volta si è paragonata l'Opus Dei alla massoneria, una massoneria bianca, una massoneria di altro tipo. Guardi, queste sono, mi lasci dire, sono balle, ma sono rende balle, l'idea. Sono basate, rende l'idea, no? No, sono balle che sono state costruite da una mentalità che ha proprio queste caratteristiche, è proprio dal mondo delle lobby, no? Da quel tipo di ambiente che poi si vede la realtà e si proietta sull'opera, creando questa creatura fantastica che non corrisponde per niente alla realtà. Viceversa, l'opera è una realtà interiore, aiuta le persone ad essere migliori, non a fare qualcosa, no? Non a organizzarsi intorno a niente. Quindi è più un movimento che un'associazione? No, addirittura è un'istituzione della Chiesa che aiuta a illuminare meglio il messaggio della Chiesa, quindi proprio l'opera è come se fosse una diocesi trasversale. Una prelatura personale. È così, no? La famosa prelatura personale, e quindi perciò è ben inquadrata nell'ordinamento della Chiesa e ha una funzione in un certo senso trasversale. È come se il Ministero della Pubblica Istruzione creasse un organismo per far venire agli italiani la voglia di studiare, no? Che è diverso che soltanto di creare delle scuole. Ecco, il Ministero fa delle scuole, però ci vuole anche la voglia di studiare. Il compito dell'Opus Dei nella Chiesa è far venire la voglia di essere santi. Questo è il scopo. E non c'è un certo complesso di superiorità in questo fatto di essere convinti di essere chiamati ad essere santi? Sì, guardi, è proprio esattamente l'opposto, direi, perché la medicina, cioè nel momento in cui uno decide di comportarsi, di identificarsi con Cristo, si accorge quanto è miserabile. Si accorge di come è peccatore, e quindi allora non c'è più la distinzione fra cattolici e non cattolici, siamo tutti dei peccatori in cammino che abbiamo bisogno del sorriso di Dio. Quindi è un, diciamo, gli aderenti, possiamo chiamarli aderenti all'Opus sì, Dei? Sì, sì, come no. Sono aderenti a questa prelatura personale, sono comunque in rapporti costruttivi anche con le parrocchie, con le altre diocesi, certo. Con gli altri movimenti, se viene l'occasione. Sì, sì, i rapporti sono buonissimi, l'opera non è un movimento, cioè nonostante i rapporti sono molto buoni. E guardi, è un segnale dello Spirito Santo, cioè il fatto che nel secolo appena passato, nel Novecento, tutte le nuove realtà, tutte gravitano intorno alla figura del laico. Si vede che questo è il momento in cui il Signore ci sta trasmettendo questo messaggio, cioè i laici devono essere santi così come noi pretendiamo la santità dei sacerdoti e dei vescovi e dal Papa. No? Come vede i giovani d'oggi, i giovani che si avvicinano per esempio all'esperienza dell'Opus Dei? I giovani sono sempre uguali, hanno una grande capacità di generosità e di amore. Quello che succede è che molte volte viene delusa questa, viene soppressa, no? Quindi l'aspirazione a cambiare il mondo è proprio dei giovani. Quindi sempre l'esperienza nostra è che i giovani sono sempre lo stesso, come diceva Giovanni Paolo II, no? Che si rivolgeva tanto ai giovani e si trovava così bene con i giovani. Abbiamo degli incontri filmati proprio con dei giovani dell'Opus Dei in cui lui ride con le lacrime, come si vive, si ride in famiglia, no? E quindi diciamo, ecco, e lui credeva, appunto, si trovava bene con i giovani, si divertiva con loro anche perché aveva fiducia in loro. Per cui ai giovani bisogna dare fiducia non soltanto in campo professionale, ma anche in campo spirituale. Ecco, in una certa prospettiva i giovani sono un po' più lontani, almeno a livello di tempo, dal paradiso, perché almeno lo vedono come qualcosa certo, di più lontano. Questo è molto giusta questa osservazione, quindi alle volte parlargli del paradiso non suscita immediatamente il loro interesse, però diventano subito invece interessati quando si accorgono che il paradiso può esserci nella scelta, nella loro professione e nella scelta della propria moglie. Cioè della propria moglie o marito, certo. Cioè nella vita professionale, nella vita matrimoniale è importante essere persone che sanno voler bene, sanno amare e che fanno il lavoro bene per amore. Questa è una scoperta che mi ha fatto fare San José María Escrivá. Ecco, proprio il lavoro è uno dei punti forti, il fatto sì. Di in fondo redimere il lavoro, far vedere il lavoro come una continuazione della creazione. Sai, è bravo, cioè, giustamente, però io sono un napoletano e a Napoli il lavoro si dice faticare, per cui non è che il napoletano come sua cultura sia proprio attrattissimo dal lavoro, poi ci sono i napoletani che lavorano tantissimo, però per me la scoperta è quando ho scoperto che il lavoro non è soltanto fatica, ma è espressione di amore. E allora invece il napoletano si trova bene, perché quando capisce che ci deve mettere il cuore, allora il cuore il napoletano lo tiene, cioè ce l'ha il cuore, per cui allora diventa molto più facile capire che fare le cose bene per amore è una maniera appunto proprio di amare Dio e gli altri. Se non sbaglio lei è un ingegnere. Sì, sì, sì, sì. E come è passato dall'ingegneria, all'ingegneria che è estremamente materiale a una missione tanto spirituale come quella che ci ha illustrato. Beh, oggi. In fondo, se ci pensa bene, Gesù stesso è stato, sia pure nel silenzio, ma un grande costruttore, no? Lui ha edificato, ha messo giù le fondamenta, le basi della Chiesa. Apparentemente è morto da solo con la mamma e un ragazzo, ma gli anni si contano dalla sua nascita. Quindi, diciamo, come costruttore non c'è male, quindi ha inciso nella storia. Ma però anche come pietra fondante, ha preso un certo Pietro che l'ha subito tradito. No, l'ha tradito, ma poi si è fatto, ha pianto. Ecco, anche lì la confessione. Signore, tu lo sai che ti amo, tu mi conosci, gli dice Pietro, una frase che mi commuove sempre: Signore, tu mi conosci, tu sai che io ti voglio bene, no? Quindi anche davanti al suo tradimento, Pietro prima ha pianto, e quindi questo è il bello, che Gesù è così e Dio è così. Bisogna saper piangere di se stessi, come quella donna che unse i capelli, che era una peccatrice, no? Invece fu accolta benissimo da Gesù, a differenza del fariseo che l'aveva accolto freddamente. Quindi quello che importa è il calore, il cuore nella vita. Ormai avevo messo il cuore da parte, siamo diventati troppo razionalisti, siamo tutti un po' anglosassoni, no? Quindi non che voglio parlare male degli anglosassoni, però quasi questo pudore di mettere il cuore da fuori. Invece intanto nel rapporto con Dio ci vuole il cuore, col rapporto con Gesù, e allora poi si ha il cuore con gli altri. E anche la capacità di emozionarsi di fronte alle cose belle, di fronte alla realtà, e di sperare poi che la realtà possa essere migliore e che in fondo anche tutto quello quanto noi sbagliamo può essere comunque frutto poi di ulteriori passi in avanti. E certo, questo poi è una prova di questo, è la contentezza. Per esempio, le dico una cosa, uno può immaginare la Madonna addolorata ma non scontenta. Sembra ridicolo pensare alla Madonna con il broncio, non riesce a immaginarsela. Perché? Perché è propria della condizione di chi ha fede, di chi si sente figlio di Dio, può anche avere dei dolori, ma non può essere scontento, perché contento viene da contenere, e la persona umile pensa sempre di aver ricevuto tanto, troppo, no? Noi le cose più belle le abbiamo ricevute gratuitamente, la vita, la cura dei genitori per anni e anni senza che noi ci rendessimo conto, e tante cose, le cose più belle sono le cose gratuite che noi abbiamo ricevuto, e alle cose gratuite e perlomeno si dice grazie. Per cui essere contenti è un indice di assomigliare a Gesù, no? Speriamo di aver fatto contenti anche i nostri ascoltatori con questa offerta gratuita della nostra conversazione di oggi. Io ringrazio Pippo Corigliano, direttore dell'Ufficio di Informazione dell'Opus Dei, autore del libro Preferisco il Paradiso, di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Paolo Corleoni in regia e Luca Rainaldi in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.